assicurmi attenti in vano non può mancare ciò che nei miastri è fisso si ti mondo di sangue a darmi aiuto tu il fianco pure riappendesti il brando ma perché solo io voglio l'uomo del colpo e solo per lo posso con la dentro racchiusa e la fatale urna che eterno fa il potere dell'empia loro mi dè Melissa e Melissa come rapirla ignora e chiusa e vedi taccia la soglia ed immortale il fiero custode delle ceneri famose e ritiri angeli se viene a cena il tempio e trai per me dell'accordo dello scempio